Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tocca all'Inter stasera rispondere alla grande serata della Juventus, la migliore di stagione, capace di direi disinnescare prima e travolgere poi la squadra rivelazione di questo avvio di stagione, cioè la Sampdoria. Poi indubbiamente la grande rimonta finale del Napoli, il quarto posto assoluto del Parma, non so quanti alla vigilia l'avrebbero pronosticato, i colpi salvezza del Chievo e del Cagliari, ma anche il disastro di Roma e Lazio, che insieme hanno i punti della Juventus e sono a un passo dalla zona retrocessione. Non andavano così male Roma e Lazio in abbinata dalla stagione 84-85, parliamo ormai di un quarto di secolo. Nel frattempo è saltato il sesto allenatore di stagione, è una buona media direi in 10 giornate, si tratta di Giampaolo. Giampaolo è un ottimo allenatore, ha detto il presidente del Siena Giovanni Lombardi Stronati, avrà un grande futuro, ma una decisione andava presa dopo tutti questi risultati negativi. Di rientro da Bologna, dopo la sconfitta di ieri sera, c'era stata una nuova contestazione dei tifosi, dei tifosi senesi, che si sono accodati al pullman della squadra in autostrada. Il mezzo, leggo da un'agenzia ANSA, è stato poi scortato dalle forze dell'ordine fino a Siena all'albergo del ritiro. I sostenitori bianconeri sono stati tenuti fuori dal piazzale, dove domenica sera avevano già fronteggiato tecnici e dirigenti, e si sono limitati questi tifosi a intonare cori offensivi all'esterno della struttura. Perché mi dilungo in questi particolari, ma perché dimostra per l'ennesima volta che aveva torto Marcio Cappello: in Italia non c'è traccia di ultra e non c'è traccia di condizionamento degli ultra sulle cose del calcio italiano. Stamane a Bianco o Nero condotto da Alessandro Milan, nell'appuntamento alle 8:30 è stato ospite il presidente Abete, che si è speso ancora una volta, come hanno già fatto il presidente del CONI Petrucci e le altre autorità dello sport, si è speso, dicevo, per contrastare, per provare a smentire questa tesi di Cappello. Il sondaggio che i nostri ascoltatori a cui i nostri ascoltatori stanno rispondendo da stamane, e adesso vado a trovare la domanda, eccola qua: voi cosa ne pensate? Gli ultra sono così potenti da condizionare le società calcistiche italiane? Bene, al dispetto della perorazione stamane del presidente Abete, il sì ha raggiunto il 91%. 91%. Appassionati di calcio e comunque nostri ascoltatori di Radio 24 sono convinti che in buona sostanza abbia ragione Cappello e abbiano torto i maggiorenti del nostro sport che negano questa evidenza. Tra parentesi, anche la Lazio stamane è partita per il ritiro, per un ritiro in una località toscana, probabilmente a Norcia, ma ha dovuto farlo con pattuglie di polizia che hanno protetto l'uscita del pullman da Fornello dai tifosi che erano andati anche oggi a contestare. Parliamo di gioco e sentiamo il commento, ovviamente entusiasti, in attesa dei vostri interventi all'800 24 00 24, il commento alla grande serata juventina di Ferrara. Molto meglio rispetto a Roma, molto meglio addirittura rispetto alla prestazione che avevamo fatto a Genoa in trasferta. Direi che tutto è funzionato alla perfezione e direi anche che veramente i ragazzi hanno fatto il massimo sfoderando una grande partita. Poi è chiaro che sono arrivati anche 5 gol che sono importanti, ma è stato credo più il gioco, la voglia, il fatto di comunque di non mollare niente. Venivamo da alcuni risultati negativi e questo forse condizionava un po' tutta la squadra. Ci stiamo riprendendo e mi auguro che chiaramente di continuare su questa strada. La grande vittoria della Juventus ovviamente ha un contraltare, che è il ridimensionamento abbastanza netto della Sampdoria. È vero però che alla Samp era già capitato con una sconfitta non altrettanto netta nel punteggio, ma quasi, a Firenze. Sembrava il brusco risveglio da un sogno, e invece la Sampdoria ha saputo ripartire come se niente fosse. Mi pare di ricordare che anche in quel caso si trattasse di un turno infrasettimanale che evidentemente non porta benissimo a Del Neri e ai suoi. Sentiamo proprio Del Neri. È stata la Juventus che ha fatto mancare la Sampdoria, ed è chiaro che quando la Sampdoria manca anche i suoi solisti di eccellenza possono avere delle difficoltà. Però noi pensiamo che la squadra della Sampdoria debba essere squadra prima di tutto, loro devono dare il loro apporto come giocatori per questa squadra. Stasera è stato fatto l'inverso, ma capita, torno a ripetere, nulla, non posso pensare che ha vinto la Juventus perché la Sampdoria ha giocato male, insomma. Penso che la Juventus abbia vinto perché era più forte in questo momento qui, ha giocato benissimo, la miglior partita dell'anno, la partita perfetta che poi l'ha fatta anche la Sampdoria contro l'Inter. Quindi direi che quando trovi queste squadre qui con grande lignaggio, tu non puoi fare altro che togliere il cappello e dire bravi veramente. Sembra un segno di saggezza questo di Del Neri, cioè saper accettare le sconfitte quando maturano in maniera così e si manifestano in maniera così netta è un segno di maturità, è un segno di esperienza ed è anche un punto di ripartenza se vengono vissute a questa maniera. Mi conferma della redazione, mai di mercoledì per la Sampdoria, perché anche l'altra batosta, quella di Firenze, era arrivata effettivamente in un turno infrasettimanale. Nella zona di Prato il segnale è disturbato, scrive Paolo. Sapete che questi annunci li leggo perché così i tecnici provvedono o ci provano perlomeno in modo più tempestivo. Non l'ha presa benissimo Leonardo, ovviamente, perché il Milan pregustava la quarta vittoria consecutiva, terza in campionato, oltre a quella a Madrid, sia pure stavolta con modalità completamente diverse, cioè sbloccando il risultato subito e andando sul doppio vantaggio. E invece è successo esattamente il contrario delle altre volte, con quella strepitosa rimonta finale del Napoli, direi anche tutt'altro che immeritata, oltre che spettacolare nelle modalità. Sentiamo Leonardo. Sicuramente la squadra è partita nel modo giusto, siamo riusciti a trovare gli spazi giusti, abbiamo fatto anche due gol troppo velocemente, nel senso, dopo gestire 85 minuti si sapeva che non sarebbe stato facile contro una squadra che gioca molto bene, che ha giocatori molto veloci in avanti, che ha tanto movimento. Credo che in certi momenti della partita Napoli ci ha messo in difficoltà, in altri sicuramente siamo riusciti a gestire, e un finale veramente incredibile, l'espulsione di Abate all'88esimo sicuramente è stato anche lei determinante per questo pareggio. La squadra è consapevole che ha fatto una grande gara. Io credo che il modo in cui abbiamo giocato non può sicuramente toccare il nostro morale. Credo che le ultime partite sono state partite di grandi prestazioni, e oggi sicuramente il pareggio era alla fine il risultato che ci rimane un po' così, un po' amaro, perché stai vincendo 2-0, lo porti la partita fino alla fine e prendi due gol in questo modo. Per quello sono gli episodi, però come prestazione io credo che è molto positiva. Siamo arrivati al primo intervallo di giornata, ci sono già alcuni di voi prenotati per intervenire subito dopo l'aggiornamento alle strade. A tempo di sport. Beh, complimenti ai tecnici a Prato, il segnale è già tornato buono, scrive Milo, visto? Cioè questi sono dei maghi, che vuole che le dica. Meglio così. Prato è in Toscana, mi risulta perlomeno, a differenza di Norcia, che invece è in Umbria. Prima ho commesso un errore di geografia, ma soprattutto, non per cercare attenuanti, ma sono stato distratto da un'altra agenzia, perché è partito anche il Catania per un ritiro in Toscana, e allora ho sovrapposto queste due. Insomma, la mappa dei ritiri attuali è che in Toscana ce ne due. Ritiri più o meno punitivi, e invece la Lazio è andata a Norcia. Ammesso che fosse corretto dirlo, perché può anche darsi invece che il ritiro dovesse restare un pochino più nascosto, sempre per via che in Italia gli ultra non ci sono, e che quindi si può stare tranquilli, e non è assolutamente il caso di usare delle cautele. Ha chiamato Tony da Brescia, buongiorno. Buongiorno, scusi se la disturbo. Ascolti, no, è un disturbo. Io volevo parlare di Napoli-Milan. Sì. E rimango sconvolto dalle dichiarazioni di Leonardo che ho sentito poco prima. Sconvolto? Sconvolto è forte. Sembra un tifoso. Non è un allenatore. Lui non ha nessuna responsabilità per ieri sera, naturalmente. Cioè, una partita che il Milan conduce 2-0, va a pareggiare, e poteva perderla quella partita perché ci sono state altre due occasioni del Napoli evidenti, grazie a Dida salvate. 2-0, tiene in campo tre punte, con Ronaldinho inesistente, invece di mettere Flamini doveva metterlo molto prima, e poi a fronte dell'uscita di Nesta gioco forza, mette dentro Calazze, e io non ho nulla contro Calazze, povero, perché è una bravissima persona, ma non è un difensore, cioè non è un difensore Calazze, cioè il Milan deve capire che deve trovare un centrale che sia un'alternativa valida a Nesta. Vabbè, ma Leonardo cosa c'entra in tutto questo? Cosa fa? Lo stampa ieri sera un centrale forte quando si fa male Nesta? No, no, assolutamente, assolutamente. No, no, però facciamo un riferimento alla sostituzione Calazze. Ecco, Leonardo è colpevole, tra virgolette, perché se l'uscita di Abate, che si è fatto espellere, e anche lì è un comportamento inaccettabile per un giocatore che gioca in Serie A, che ha già una munizione sulle spalle e fa un intervento di quel tipo, non ha messo dentro un difensore. Cioè ha lasciato la squadra così com'era, a quel punto tiri indietro, tiri giù Pato, tiri giù Boriello, sei sul 2-0, sul 2-1, metti un difensore in più e ti chiudi un attimino, fai girare la palla, perché a 3 minuti dalla fine prendere il secondo gol, mi sembra assurdo, assurdo, per una squadra che stiamo parlando del Milan. Quindi è una squadra che deve avere un'impostazione di gioco. Quindi, immagino che se lei la pensa così sulla rimonta del Napoli ieri sera, immagino che la sera del Liverpool lei cosa avrà fatto? Ha tirato gli spilloni sulla foto di Ancelotti? Io ero a Napoli e no. Quando il Milan alla fine l'ho visto così che tentennava, ho detto finisce come Liverpool. E c'erano i miei amici napoletani che mi dicevano magari. Grazie Tony. Grazie Tony. Teo dalla provincia di Asti, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno innanzitutto, complimenti per la trasmissione che la trovo sempre molto, molto pacata. La ringrazio, ma sono 30 secondi andati. Stringere. Certo, una domanda veloce. Io sono un abbonato, vado tutte le domeniche, tutte la sera quando gioco la Juve, sono un abbonato da tanti anni. Le chiedo questa, una domanda tecnica. Secondo lei come si spiega questo fatto che la Juve giochi delle partite discrete, se non mediocri, come contro il Maccabi, contro il Siena, contro il Bologna, e poi ieri sera io ho visto la partita allo stadio e si trasforma in una, ha fatto una partita che negli ultimi anni io non ho mai visto, ecco. Vale per tutte le squadre, Teo, l'impressione che non sia una domanda tecnica questa, perché riguarda la forma dei giocatori, la forma collettiva, non evidentemente soltanto la forma individuale, perché non basterebbe. Io credo che una buona parte di spiegazione stia nel calendario. Il calendario è troppo intenso e troppo fitto per consentire continuità di rendimento a chiunque. Lei ha fatto l'esempio dell'Juventus di ieri sera, che è quello più fresco, ma se ricorda la partita che ha giocato in Coppa l'Inter dopo aver stravinto a Marassi su un campo come quello del Genoa, credo che il ragionamento che si può fare sia lo stesso. Queste grandi squadre comunque, a differenza delle, non dico delle piccole, ma anche soltanto delle medie o medio-alte, riescono in ogni caso il risultato a tirarlo a casa anche quando non sono brillanti, anche quando hanno il momento di flessione. E il momento di flessione, giocando ogni 3 giorni, è matematico che arriva. I 3 punti di Siena credo per la Juventus che siano più importanti e pesino di più di quelli di ieri sera contro la Sampdoria, perché i punti che contano alla fine sono quelli che non dicono meriti, ma che tiri via con i denti. Mentre tutto è diverso quando invece riesce a centrare la grande partita come ieri. Una controprova ce l'abbiamo subito tra 48 ore, perché la Juventus torna in campo già alle 6 di come il Napoli d'altra parte, parità di trattamento, già alle 6 del pomeriggio del sabato, e Juventus-Napoli in questo momento è una partita di veramente di cartello. Alberto da Torino, buongiorno. Dica. Buongiorno a lei dottore, grazie per consentirmi questo intervento. Mi accodo all'ascoltatore precedente per dire che anch'io sono un abbonato juventino e ieri sera ho visto una partita che veramente da anni non si vedeva, ho visto quella partita e quella squadra che mi immaginavo all'inizio della stagione, con 2 pilastri in mezzo al campo come Sissoko e come Felipe Melo, dove anch'io in mezzo potrei farla da padrone, detto francamente. Quello che però le volevo chiedere è un altro aspetto legato più al rapporto arbitri-calciatori. Ieri sera c'è stato solo un momento, anche perché non ci sono stati presupposti tali da creare liti in mezzo al campo tra arbitri e calciatori, però quello che le volevo chiedere è questo. Io ho fatto l'arbitro per 20 anni e ricordo che una delle prime cose che mi hanno insegnato è: tu devi parlare solo ed esclusivamente con il capitano, è l'unico calciatore che può parlare con te. Ecco, ma questa benedetta regola dove è andata a finire? Perché si consentono queste Cominci ininterrotti, dice lei, da parte dei giocatori. Uno degli aspetti più fastidiosi del nostro calcio, davvero. Io quando faccio sempre più fatica a vedere partite nostrane, dopo aver fatto l'abitudine a vedere partite di club, cioè partite di campionato di un altro livello, in cui salvo eccezioni rarissime, in cui la decisione arbitrale viene accettata o al massimo viene contestata da un gesto di disappunto o da una levata d'occhi al cielo, che ogni volta veramente è sempre più insopportabile. Stefano da Brescia scrive, anzi domanda: Palladino, Cigarini o Božinov il meglio di giornata? Io ci metterei anche Marcolini in sé, perché uno che sbaglia un rigore a metà primo tempo e che avrebbe chiuso la partita e che poi trova la forza, no, di riscattarsi, quindi ha qualcosa dentro, se poi a distanza di mezz'ora si inventa un gol come quello che ha segnato il mancino del Chievo. Comunque direi questi 3-4 certamente. Stefano aggiunge: il peggio sicuramente Jovetic. Io lì sarei molto, molto punitivo. Lo so che non è applicabile la prova televisiva perché l'arbitro ha visto benissimo l'episodio e lo ha punito con un cartellino giallo, quindi la sanzione c'è già stata, però io credo che un tuffo come quello di Jovetic di ieri sera meriterebbe 3 giornate di squalifica, perché siamo veramente all'antisportività assoluta a parer mio, e sono questi gli episodi che poi rovinano le partite. Walter da Ferrara, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, niente, la chiamo per il caso Capello, diciamo. Sì. Niente, senta, il signor Fabio Capello, per dirla in sintesi, per me ha un comportamento un pelino ruffiano, le spiego il perché. Perché quando era la Roma allenatore, la Juve era il grande nemico, la triade Moggi, soliti discorsi, la Juve sudditanza psicologica, è passato alla Juventus, è diventato amico di Moggi, Giraudo, grande difesa della Juventus, no, non è vero, ma qui, ma là, stranamente diventa commissario tecnico dell'Inghilterra, inizia a tirare fiele contro il calcio italiano, dicendo che è controllato dagli ultras. Guardi, io le dico, faccio la premessa, non voglio difendere il nostro calcio che è malato e sono il primo ad ammetterlo, però io vorrei dire al signor Fabio Capello che magari dovrebbe guardare anche in casa inglese. Non stiamo parlando di 2 anni fa, mi pare, io ieri ho guardato su internet, Manchester contro Barnsley, Carling Cup, tifosi sono aspettati fuori, sono scappati feriti, polizia che è dovuta intervenire e lui viene a dare lezioni a noi. Sicuramente il nostro calcio è malato, abbiamo i nostri tifosi che contestano una volta o sì o l'altra no. Ascolti Walter, però non mi pare che il calcio inglese sia così puro e casto. Un altro esempio, non è 20 anni fa, 3 mesi fa, mi sembra che partita sempre di Coppa, Millwall contro West Ham, i tifosi si sono dati appuntamento via internet per menarsi. E allora adesso io capisco che il nostro calcio sicuramente non è a livello inglese come stadi, come comportamento del pubblico dentro lo stadio, però i tifosi inglesi adesso non sono così diventati da beatificare. Ecco. Walter, io non credo, non ci siamo capiti, o probabilmente non avete voluto capire voi. Capello non ha beatificato i tifosi inglesi, ha accusato i tifosi italiani, ma soprattutto intanto non è il responsabile né della tifoseria inglese e nemmeno dell'ordine pubblico inglese, no? Mi pare Fabio Capello. È uno che è andato a allenare là, come prima era andato a allenare in Spagna, e come tutti quelli a cui capita un'avventura di questo genere e hanno voglia di fare dei paragoni e ragionare con la loro testa, è rimasto stupefatto dalla differenza che c'è di voglia di contrastare certi fenomeni. Poi questi fenomeni esistono sia in Inghilterra che in Spagna, esistono in tutto il mondo ormai, ma da nessuna parte sono accettati, tollerati e subiti come in questo povero paese in cui viviamo. Questo ha detto Capello in estrema sintesi, e sinceramente non mi sembra che sia contestabile. Le ripeto che per quel poco che può... No, ho già detto ieri che c'era un sondaggio su questo argomento della Gazzetta dello Sport che dava ragione a Capello all'88%. Quello che Radio 24 ha lanciato stamane in bianco o nero gli dà ragione al momento al 91%. Questo non toglie che lei abbia diritto di far parte dell'altro 9%. Difficile però capovolgere l'esito, no? di un modo di pensare, anche perché collettivo come questo, anche perché insomma, gli episodi da noi si succedono e si susseguono e non c'è come altrove la voglia di combattere. Comunque ci torniamo dopo un intervallo già un po' ritardato e mi dispiace con i mercati. A tempo di sport. Sono genoano, scrive Alex Fabri da Monza, e dunque contento per ieri sera, ma come ci eravamo lamentati a Cagliari dell'arbitro, bisogna dire che ieri sera c'era un rigore e mezzo per la Fiorentina sullo 0-0. Alex Fabri l'ho visto, quindi non lo apprendo da lei, ma certamente non l'ho sentito da parte di tutti i genoani, a cominciare da allenatore e dirigenti, che si erano lamentati domenica. Vale per il Genoa, ma varrebbe per qualunque altra società. Il nostro, non solo il nostro per la verità in questo, comunque è un calcio in cui si accusa ricevuta sempre soltanto dei torti, mai dei favori per involontari che siano. Ci sono molti ascoltatori prenotati, alcune mail splendide da leggere e delle voci di protagonisti da ascoltare, anche se tutto insieme non riusciremo a farlo. Quello di cui vi prego è la sintesi negli interventi, 30 secondi ciascuno. Ettore dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno. Io in gran parte ha detto l'ascoltatore di prima della borsa che... è facile parlare, no? Voglio dire, da fuori, ma lei ha risposto: qui non c'è, cioè in Italia non c'è la voglia di combatterlo, no? Però io dico, ho letto anch'io dei 20, non so quanti, 10-20 tifosi arrestati del Manchester o non so se della tua squadra, ma i morti dell'Eisel non li abbiamo mai fatti noi, e non ce li siamo inventati i tifosi inglesi che vengono in Italia e li vediamo ubriachi per le città in Italia, nelle nostre città. Io non mi ricordo di cose che abbiamo fatto noi così all'estero. No, difatti, questo, per fortuna questo non è mai accaduto, non abbiamo mai esportato di fenomeni di questo genere. Però io non proverei a fare una differenza tra le piaghe sociali, no? e i comportamenti invece che esistono nel mondo cosiddetto dello sport. Farei anche una differenza soprattutto tra la voglia di contrastarli, la capacità di contrastarli e quell'altra. Non so, le leggo Adriano Battistutta, perito industriale da Udine, che scrive: non capisco come certa gente, e si riferisce a Petrucci e ad Abete, ma a Petrucci in particolare, alla luce degli eventi abbia anche il coraggio di rispondere a Capello dicendo che lui deve occuparsi degli hooligans. Non credo che a mister Capello si possa imputare alcunché riguardo alla storia del tifo inglese, mentre con la mentalità del tifo italiano probabilmente i nostri dirigenti qualcosa c'entrano. Altre le leggerò più avanti. Tocca ad Alessandro da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, salve. Niente, un primo argomento penso che abbia già risposto anche all'ultima mail che ha letto. Sono d'accordissimo con Capello e con quanto detto nella mail. L'altro argomento invece vorrei parlare un attimino, visto collegandoci alle lamentele sull'allenatore Leonardo, vorrei fare l'elogio degli allenatori come Guidolin, che purtroppo sono ottimi allenatori ma rimangono sempre relegati ad allenare squadre come il Parma, il Bologna e via discorrendo. Penso che Guidolin tatticamente ieri sera non avrebbe fatto gli errori di Leonardo, che gode del fatto solo di essere un nome blasonato a livello internazionale. È un peccato vedere che certi allenatori molto bravi come Guidolin, Gasperini ed altri che finiscono per l'Italia, Ventura, Bari, purtroppo debbano sempre rimanere legati a questi club. I grandi club godono di fenomeni come Mourinho. Io tra l'altro sono interista, che penso di Mourinho ne abbiamo tanti in Italia. Tutto qua. Grazie Alessandro. Capello, scrive un ascoltatore, cerca l'applauso facile. Punterà a entrare in politica col PD? Ecco, questo mi sentirei di escluderlo, perché Capello, non dico l'ultima raffica di Salò, ma insomma, diciamo che Capello ha sempre avuto orientamenti molto precisi sin dalla politici sin dalla sua gioventù e non li ha mai cambiati, e anzi ai tempi in cui i discorsi di adesso li faceva, diciamo una decina di anni fa, li faceva riferiti alla Spagna. e quindi la sua prima esperienza internazionale, fu quasi accusato in Spagna di apologia di franchismo, questo per dare un'idea, no, degli orientamenti di Capello. Tocca a Salvio dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini, come vede la trasmissione? Niente, una cosa velocemente, io sono un allenatore di squadre, sono minorili, il campionato. Ogni anno seguo una squadra, molto la Juve, guardo tutte le partite. Ecco, io se fossi tifoso del Milan sarei molto allegro, perché il Milan veramente è stato, per le 13 partite che ha fatto, 10 campionato e 2 o 3 di Champions League, messo spesso e volentieri proprio sotto torchio la squadra. Mi ricordo la partita a Marsiglia, ma anche ieri a Napoli, voglio dire, sembrava una squadra proprio senza verve. Lo stesso a Roma, è stato a Milano con la Roma, ha avuto un po' di fortuna, a Verona col Chievo anche, quindi voglio dire, Leonardo deve stare un po' attento ad essere ottimista. E poi volevo fare una tiratina d'orecchie a Capello, che ha ragione in tutto, però poteva dirle prime quando faceva l'allenatore in Italia, insomma, queste cose. Grazie, ascolto. Le ha dette anche allora, Salvio, sono stufo di ripetere questa cosa, sinceramente, da 48 ore ininterrottamente. Dipende sempre da chi ha orecchie per ascoltare, e le garantisco che i panni del difensore d'ufficio di Capello non mi vanno in maniera particolarmente congeniale, però la verità è la verità, e quindi comunque va, andrebbe rispettata. Questa mail firmata da Nira Carina: caro Garanzini, lei ha più abbonati juventini come ascoltatori che non lo Stadio Olimpico di Torino, perché 20.000 spettatori per una squadra così mi sembrano davvero pochini. Allora, questo mi permette di dare un'occhiata alla tabella che Franco Piattanida ha preparato stamane. Dunque, ieri sera ci sono stati in tutta la Serie A 59.276 paganti per 9 partite, perché l'Inter gioca stasera. Gli abbonati sono 144.000 fischia. Insomma, diciamo che mettiamola in percentuale, che così è più semplice. Ieri sera c'è stato più del 60% di spettatori, somma paganti più abbonati, presenti sul campo, 60% rispetto alla capienza di ciascun stadio, e questo è un dato confortante, perché vi dicevo ieri che siamo su una media di poco superiore al 50%, del 53% circa. Ieri sera c'è stata un'impennata, trattandosi di un turno infrasettimanale. È un dato positivo, anche se va tenuto conto che, per esempio, dei paganti la metà circa sono quelli che c'erano a Napoli e che c'erano oggettivamente partite di cartello, però in genere va peggio durante i turni infrasettimanali. Franco ha chiamato da Mantova, buongiorno. Santini, buongiorno. Volevo tornare un attimo sul campionato. Sì. Premetto che mi sembra che l'Inter come organico sia ancora un tantino superiore alle altre, compresa, però sono rimasto impressionato nel vedere le partite della Juventus dalla ossanza fisica dei suoi giocatori, cioè su 11 giocatori, se non erro, a 8 o addirittura 9 venivano sul 1,90 m, e vedendo che l'atletismo, diciamo, la forza fisica negli ultimi anni, insieme chiaramente anche alla classe, è stata decisiva per la vincita del campionato, secondo me questo gap si ridurrebbe in un prosieguo del medico. Potrebbe essere a muscoli, quest'anno è messa meglio di prima, anche la Juventus, e sappiamo, l'ha ricordato lei, che la forza fisica dell'Inter è stata determinante in queste ultime stagioni. Un'altra mail. Mette davvero tristezza leggere che la difesa del calcio italiano da parte di Petrucci si basa principalmente sull'etimo della parola hooligans, un po' come se i francesi non potessero contrastare la pena di morte perché un loro connazionale diede il nome alla ghigliottina. Del resto sembra che molti preferiscano ascoltare l'orchestrina che suona anziché sentire le urla di chi si accorge che la nave sta affondando. Questa è una mail firmata da Mauro da Milano. Poi c'è un aneddoto curioso, interessante e curioso, che vi leggerò dopo, da un'altra mail scritta da Enrico Meloni. Leggo anche molti messaggi interessanti, però il tempo sinceramente è tiranno. Sentiamo ancora un ascoltatore, ma vi raccomando sintesi. Luciano, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Riallacciarmi al discorso fatto da Capello. Sì. Io frequento regolarmente lo stadio di San Siro, sono tifoso dell'Inter con la famiglia, E se dovessi prendere come esempio il mio caso, direi no, di problemi non ce ne sono, perché insomma Milano è sempre stato tranquilla, i derby sono sì, qualche motorino ogni tanto, ma insomma non no? Però diciamo che con mio figlio ho visto parecchie famiglie, a parte vabbè la curva qualche volta, ma diciamo che in generale non ci sono stati problemi. Però sono pienamente d'accordo con Capello, perché diciamo in generale il problema c'è e bisogna affrontarlo. Questo è quello che ha detto. Scrive adesso, trovo questo messaggio. Susi, ma questi che parlano, e non è riferito a lei, sia ben chiaro, hanno capito o no il discorso di Capello? Io ho qualche dubbio che lo abbiano ascoltato con attenzione. Ultimo intervallo, strade. A tempo di sport. Nicola Filippone con il suo ripasso di storia. Sembra ieri. 29 ottobre 1933. La Pro Vercelli travolge la Fiorentina per 7-2, trascinata da un giovane Silvio Piola. Quello che sarebbe diventato il bomber più prolifico del calcio italiano realizza 6 reti. Tuttora un record per la Serie A a girone unico. Solo un calciatore riuscirà a eguagliare l'impresa di Piola. Omar Sivori, il 10 giugno 1961, in Juventus-Inter 9-1, gara in cui il club nerazzurro, per protesta, schierò i ragazzi della primavera. Eh beh sì, è vero, va ricordato, Sivori contro i ragazzini, Silvio Piola contro gli adulti, insomma. Sembra ieri anche questa lettera che scrive Enrico Meloni e che dice: vorrei portare una testimonianza sulla questione sollevata da Capello. Dico sembra ieri perché parliamo di settembre 2003 e qui ripasso la parola a Enrico. Stadio Meazza, Italia-Galles. Torno allo stadio dopo molti anni. Acquisto ingenuamente biglietti di curva perché mi aspetto una tranquilla festa dello sport e ci vado con parenti e figli. Dai 7 ai 9 anni. L'unica preoccupazione è che i gallesi possano aver alzato un po' il gomito, parlo dei tifosi. Mi illudo che ci si possa sedere ai nostri posti che sono numerati. Invece, mentre la tifoseria gallese intona allegri e innocui cori, ben isolati nel loro settore, noi siamo costretti a starcene dietro un gruppo di ultra interisti, e sono interista anch'io, che in piedi o seduti sul parapetto da assoluti padroni della curva in una partita della nazionale ci impediscono con prepotenza la visuale mentre si fumano le loro canne e tracannano birra. Nessuno ovviamente osa battere ciglio, tantomeno io che ho 3 bambini con me. Risultato: l'Italia vince 4-0, ma i 4 gol che vengono segnati tutti nella porta sotto di noi riusciamo a vederli solo in TV quando torniamo a casa. Ovviamente ho detto addio allo stadio. Firmato Enrico. Ha chiamato Giuseppe da Bologna. Buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, io volevo intervenire sul Napoli. Sì. Che si dice sempre che l'allenatore incide all'incirca sul 20% sulle squadre. È vero che in campo vanno i giocatori, però secondo me va riconosciuto che Mazzarri ha cambiato il Napoli in 3 settimane. Cioè, voglio dire, come atteggiamento, soprattutto come grinta, come crederci fino all'ultimo minuto. Sì, avrei voluto sentirla se ieri sera, non so, Dida fa un miracolo anche su quel tiro di Cigarini. Avrei voluto sentire oggi cosa avrebbe detto. Guardi, non gli posso dare la controprova, però io ho spento la TV perché, dovendomi alzare molto presto, ho lasciato la partita circa al 70esimo. Il commento che ho fatto è quello che avevo fatto domenica scorsa, che veramente la mano di Mazzarri, secondo me, si vede moltissimo. Ah beh, allora mi ha indubbiamente smentito. Io devo dire che un vero tifoso di cuore che al 70esimo molla la squadra sullo 0-2 è una delle prime volte che la sento nella vita. Però capisco che i risvegli antelucani siano... meritino rispetto, insomma, e quindi l'apprezzo per la sua, diciamo, serietà professionale, magari meno per quella tifoidea, ecco, mettiamola così, ma sto scherzando. Mario Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io ho sentito l'ultimo intervento di quel tifoso interista, francamente mi viene la pelle d'oca, perché se non erro negli ultimi anni i tifosi interisti, che a detta di quel signore sono tranquilli, sono stati protagonisti di Molotov contro l'autobus dell'Inter, il motorino. Sì, Mario, gliel'ho già rinfacciato io, per cui non ripetiamo sempre le stesse cose. Lui però raccontava di una sua esperienza personale, mi sembrava una persona credibile, la sua esperienza personale con i figli allo stadio è un'esperienza positiva, non vedo perché contestargliela. No, io vorrei dire semplicemente che ho sentito le parole di Cappello, ha espresso in modo molto chiaro un concetto altrettanto chiaro, quindi francamente non so dove si vogliano aggrappare i vari Petrucci e compagnia, cioè veramente sembra non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Un'ultimissima roba. Questo è giusto. L'ultimissima roba, sono simpatizzante milanista, ma queste due vittorie e questo pareggio di ieri non vorrei che ci facessero illudere, perché secondo me insomma non siamo sulla buona strada. Grazie. A proposito di quello che ha detto all'inizio, Beppe scrive: ho sentito stamattina la vostra trasmissione alla radio in bianco e nero, ma ho fatto molta fatica a capire le risposte date al vostro intervistatore. Stiamo parlando del presidente federale Giancarlo Abete e evidentemente di un imbarazzo in materia. Ieri vi ho letto molte mail di ascoltatori, ho registrato molte vostre opinioni. Mi piacerebbe anche darvi conto di un capoverso, sia pure lungo, che ha scritto ieri Michele Serra su questo argomento. È storicamente dimostrato che le curve degli stadi sono, non solo in Italia, una palestra di violenza politica impareggiabile per la quantità dei ragazzi arruolabili e per la qualità particolarmente rudimentale di quella cultura. Il ruolo degli ultra di calcio serbi e croati nel divampare della carneficina jugoslava è ampiamente accertato ed è facilmente intuibile lo stretto legame tra l'odio razziale dentro gli stadi e fuori, in quel lunghissimo dopo partita che è la vita sociale. Gran parte delle aggressioni politiche omofobe avvenute a Roma negli ultimi anni è riconducibile alla cultura, al clima e spesso anche alle persone protagoniste delle curve dell'Olimpico. Che il calcio sia complice e vittima del fenomeno non è in fondo la cosa più grave, peggio per il calcio, ma che il contagio esca, sia già uscito dagli stadi, è un capo di imputazione in più per i dirigenti pavidi e a volte anche complici. Ultimo intervento di oggi, Emilio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, dottor Garazzini, complimenti per la trasmissione molto veloci. Le volevo soltanto dire questo, che io non riesco a capire, forse lei mi può aiutare, ma perché prima di vedere nel contenuto quello che ha detto Cappello si cerca comunque di demolire la persona di Cappello? Perché questo povero paese, Emilio, per come lo capisco io, ormai... Se vede un dito che indica la luna in qualsiasi materia, in qualsiasi argomento, di qualunque cosa si tratti, si riesce a fissarsi per incapacità, credo, e in qualche caso per malafede, riesce a fissarsi solo sul dito, ma a vedere la luna purtroppo non ci arriva più. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, grazie a Franco Piantanida che ha assistito Flavio Soani in redazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon pomeriggio.